suo tavolo del New York Times, Andre Gray ricordava l'ultima volta in cui si era trovato a dover scrivere un pezzo impossibile, come ora. Quando sentirete il rintocco, saranno esattamente le 10:26, ora media della costa orientale. Douglas Ross cercò di assumere un'aria disinvolta sulla porta della banca. Non aveva mai fatto una cosa simile in vita. Trasse un profondo sospiro, si asciugò le mani e prese una penna. Poi scrisse: consegnatemi $10,000 in biglietti di piccolo e medio taglio. Non fate gesti avventati. Questa bottiglia è piena di nitroglicerina. Roche aveva 34 anni, era sposato, aveva 3 figli. Un lavoro che gli rendeva $127 alla settimana meno le trattenute. Aveva 2 ipoteche, un'auto, un frigorifero, un televisore, un conto corrente scoperto e un conto arretrato di 3 mesi. In tasca $2,18 e un gettone della metropolitana. Sua moglie era stata appena ricoverata all'ospedale per un'operazione. L'avevano ricoverata senza chiedere un anticipo solo perché lui aveva promesso di versare $200 entro le 9 del mattino seguente. Roche non era un rapinatore, ma un uomo con l'acqua alla gola. Per questo stava diventando un rapinatore. Quando sentirete il rintocco saranno esattamente le 3:49 pomeridiane, ora media della costa orientale. Andrew Gray non era naturalmente il solo giornalista intento a scrivere quella storia impossibile, ma il suo articolo era importante e il servizio sarebbe apparso in prima pagina. L'ultima edizione della Sera ne aveva parlato. Un altro quotidiano l'aveva definito con una frase lapidaria: giudizio universale. Se si fosse trattato di una meteora, quella minaccia avrebbe potuto essere sventata. Perfino un asteroide avrebbe potuto venire frantumato in massi relativamente piccoli e innocui se le potenze mondiali si fossero accordate. Ma non c'era alcun modo di disperdere una nube di gas tossici così enorme da avvolgere la Terra per 37 giorni, avvelenando ogni essere vivente. Andrew Gray infilò un altro foglio nel rullo della macchina, accese un'altra sigaretta, ormai non doveva più preoccuparsi del cancro, e provò ancora una volta a buttare giù qualcosa che, come si dice in gergo, reggesse in tutte le edizioni. Vide il titolo di un giornale concorrente, molto semplice: non ci sarà un domani? Quel punto di domanda, che ignorava con tanta noncuranza le meschine preoccupazioni dei giornalisti, fu a disperazione di tutti i direttori dei giornali, perché naturalmente il mondo non finì. Il mondo non è finito e pertanto possiamo cominciare. Si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo... È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza... Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. Cultura scientifica, vuol dire, è qualcosa di immenso. Al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Mercoledì 10 settembre 2008 e ricomincia Caccia al fotone. All'inizio, come al solito, vi diamo i soliti contatti: 333 180 94 94 per inviare un sms e cacciafotone@radiocittafugico.it per inviare una mail. Quest'oggi però è una puntata del tutto speciale. In diretta con noi, proprio qui, avremo Domenico Galli dell'INFN di Bologna. Dottor Galli, oggi non si è fatto altro che parlare di questo benedetto acceleratore di particelle, LHC. Ma per cosa stanno le lettere LHC? LHC sta per Large Hadron Collider, cioè grande collisionatore adronico. Grande perché ha dimensioni effettivamente grandi, si pensi che ha una circonferenza di 27 km. Hadron perché le particelle che accelera questo dispositivo sono degli adroni, sono dei protoni in particolare. E protoni sono, lo ricordo, le particelle che compongono i nuclei della materia ordinaria. Sono per esempio i nuclei degli atomi di idrogeno, sono formati da un solo protone. Queste particelle vengono immesse in questo acceleratore e poi accelerate, e collisionatore perché vengono fatte collidere l'una con l'altra. Questo a differenza dei vecchi acceleratori in cui le particelle venivano fatte sbattere contro un bersaglio fisso. Nei collisionatori invece le particelle vengono fatte scontrare con delle particelle che si muovono in verso opposto, in modo da avere la massima energia possibile in questo impatto. Dottor Galli, LHC in quanti esperimenti si divide? Dunque, LHC è in particolare il nome di questo acceleratore che sta in un tunnel sotterraneo e ha la forma di una ciambella. Lungo il percorso di questo tunnel sotterraneo sono presenti quattro grandi siti sperimentali, i quattro esperimenti principali che si svolgeranno presso questo acceleratore, che sono ATLAS, CMS, ALICE e LHCB, ciascuno dei quali ha dimensioni tali da stare in una caverna molto grande perché si trova sottoterra. Le dimensioni sono quelle per esempio di un palazzo di 5 piani scavate sottoterra, per dare un'idea. Noi ci lasciamo con un pochino di musica e poi torneremo subito in studio. Oh yeah, I'm about to drop some particle physics in the club. The LHC is super duper fly, you know what I'm saying. Check it. 27 kilometers tunnel underground, designed with mind to send protons around. A circle that crosses through Switzerland and France, 60 nations contribute to scientific advance. Two beams of protons swing round through the ring they ride, till in the hearts of the detectors that made it collide. And all that energy packed in such a tiny bit of room becomes mass particles created from the vacuum. And then... Oh yeah. LHCB sees where the antimatter's gone. Alice looks at collision. each galaxy's core. But even all that matter cannot explain what holds all these stars together. Something else remains. The star matter interacts only through gravity. And how do you catch a particle? There's no way to see. Take it back to conservation of energy, and the particles appear clear as can be. You see particles flying in jets they spray, but you notice there ain't nothing going the other way. You say my law has just been violated. That don't make sense. There's gotta be another particle to make this balance. And it might be dark matter. And for the first time, we catch a glimpse of what was from most of the known verse, because galaxy is where the antimatter's gone. Ellis thinks the collisions of lead ions. Seeing them as an atlas, they're two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. Antimatter is sort of like matter's evil twin, because except for charge and hiddenness of spin, they're the same for a particle and its anti-stuff. But you can store an antiparticle on any shelf, because when it meets its normal twin, they both annihilate. Matter cures the energy and then it dissipates. When matter is created from energy, which is exactly what they'll do in the LHC, you get matter and antimatter in equal parts. And they try to take this back to when the universe starts, the Big Bang, back when all the matter exploded. But the amount of antimatter was somehow eroded, because when we look around, we see that matter abounds, but the antimatter's nowhere to be found. That's why LHC is where the antimatter's gone. Ellis looks at collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons on the lead, and the things that it discovers will rock you in the head. That he explodes, and that's the one that everybody talks about. And it's the one sure thing that this machine will sort out. If the Higgs exists, they ought to see it right away. And if it doesn't, the scientists will finally say there is no Higgs. We need new physics to account for why things have mass. Something in our standard model went awry. But the Higgs, I still haven't said just what it does. They suppose the particles have mass because there is this Higgs field that extends to all space. And some particles slow down while other particles race straight through like a photon. It has no mass, but something heavy like the top four X dragons. And the Higgs is the boson that carries the force. It makes particles take orders from the field that is its source. They'll detect it. When LHC sees where the antimatter's gone, Ellis thinks the collision of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The stuff you might think that gravity is strong, cause when you fall off your bicycle, it don't take long until you hit the earth and you say, dang, that hurt. But if you think the force is powerful, you're wrong. You see, gravity is weaker than weak, and the reason why is something many scientists seek. They think about dimensions. We live in just three, but maybe there are others that are too small to see. It's into these dimensions that gravity extends, which makes it seem weaker here on our end. And these dimensions are rolled up, curled so tight that they don't affect you in your day-to-day life. But if you were as tiny as a graviton, you could enter these dimensions and go wandering on, and they'd find you. When LHC sees where the antimatter's gone, Ellis looks at collisions of lead ions. Oh bene, quella che vi state ascoltando è una canzone fatta esclusivamente per LHC, fondamentalmente un gruppo di fisici del CERN. Hanno voluto scrivere proprio un rap su LHC per cercare di spiegare al popolo, insomma a tutti, che cos'è questo acceleratore di particelle. Ricercatori che preferiscono rimanere anonimi, chissà perché. La novità di questa trasmissione è questa: potrete parlare col dottor Galli attraverso gli sms, attraverso la chat e attraverso l'email. E quindi vi ricordo i contatti: 333 180 94 94 per inviare gli sms, cacciafotone@radiocittafugico.it per inviare una mail, e entrare nel canale Radio Città Fugico al server irc.freenode.net. Quest'oggi parliamo dell'acceleratore di particelle. Dottor Galli, cerchiamo di descriverlo meglio, questo acceleratore di particelle. Prima di tutto, è in superficie o sottoterra? No, si trova a una certa profondità sottoterra. Di fatto sta in un tunnel scavato nel sottosuolo che ha la forma di una ciambella. Cioè, i protoni arrivano a questo grande acceleratore dopo essere passati per una catena di vecchi acceleratori. Si parte da un acceleratore lineare, poi un piccolo anello che si chiama PS, cioè protosincrotrone, poi un anello ancora più grande che si chiama SPS, super protosincrotrone, e da questo i protoni vengono divisi in due parti e vengono immessi in questo LHC, nel grande collisionatore adronico, parte per circolare in senso orario, parte per circolare in senso antiorario. Questa circolazione di questi due fasci in senso opposto fa sì che questi protoni possano scontrarsi, e si scontrano dove questi fasci si incrociano, cioè nei quattro punti in cui sono situati i quattro esperimenti principali dell'LHC. Senta, le faccio una domanda: questo è l'unico acceleratore di particelle che è stato costruito dall'uomo o ne sono stati costruiti altri? E soprattutto, perché l'LHC è tanto aspettato da tanti anni da parte dei fisici? Gli acceleratori se ne fanno da tanti anni, dall'epoca di Fermi già. I primi acceleratori erano acceleratori piccoli, erano i cosiddetti ciclotroni. Poi dopo sono stati fatti acceleratori sempre più grandi. Diciamo che l'ultimo acceleratore prima di LHC è il Tevatron, che si trova negli Stati Uniti, vicino a Chicago. Gli acceleratori si differenziano ed evolvono per l'energia che si riesce a rilasciare nell'urto. Diciamo, il precedente acceleratore, che è il Tevatron, arriva a un'energia di un TeV, mentre LHC arriva a un'energia superiore, che è 14 TeV, dove dunque la parola TeV significa 10 alla 12 elettronvolt, cioè 1000 miliardi di elettronvolt. Cioè un'energia assolutamente straordinaria, praticamente. Sì, è un'energia molto grande, soprattutto se si pensa che è un'energia tutta acquistata dalle particelle microscopiche. Quanto è diversa il valore dell'energia creata all'interno di LHC rispetto al valore che si creò all'inizio dell'universo? Ovviamente più ci si avvicina verso l'inizio dell'universo, più l'energia è elevata. Se noi andiamo negli istanti immediatamente dopo il Big Bang, è chiaro che ci si trova dell'energia enormemente superiore a quelle di LHC. Ma diciamo che questo aumentare l'energia della collisione negli acceleratori ci porta indietro nel tempo fino ai primi istanti del Big Bang. E questo è fondamentalmente quello che cercherà di studiare l'esperimento LHCb, su cui lei sta lavorando peraltro, dove B sta per? B sta per Beauty, appunto, il nome di questo quark, che è il quark Beauty. Questo quark in particolare è posseduto da certe particelle che sono i mesoni B0 e anti-B0 che noi studiamo nell'esperimento LHCb, per fare misure della violazione di una simmetria della natura, che è la violazione di CP. La violazione di CP è una cosa complessissima da spiegare, proviamoci un attimo. Innanzitutto diciamo che cos'è C e che cos'è P. Esatto. Per esempio, noi ci guardiamo nello specchio, vediamo non la nostra immagine, ma la coniugata per parità della nostra immagine. Questo perché, se voi pensate, l'immagine che noi vediamo nello specchio ha la mano destra scambiata con la mano sinistra, c'ha qualcosa di diverso. C invece sta per un'altra simmetria, che è quella che corrisponde allo scambio della carica, cioè C mi fa passare una particella con carica positiva alla stessa particella con carica negativa, cioè a una particella della materia, una particella di quella che chiamiamo antimateria. Che cos'è la mela e l'antimela? Allora, se uno le guarda, se uno potesse guardarle, se si potesse costruire un'antimela, noi non saremmo in grado con la vista di distinguerle, sarebbero esattamente identiche. Cosa differiscono? Con un problema però, che se le due mele per caso venissero a contatto, si sprigionerebbe un'energia enorme, molto più di una bomba atomica. La differenza sta nel fatto che mentre nella materia ordinaria i protoni che stanno nei nuclei degli atomi hanno carica positiva e gli elettroni che stanno attorno hanno carica negativa, nell'antimateria succede esattamente il contrario, cioè i nuclei al centro degli atomi hanno carica negativa e gli elettroni attorno hanno carica positiva. Questa è l'antimateria. L'antimateria si riesce a creare in laboratorio, è da anni che si conoscono le antiparticelle, ma stranamente nell'universo non si trova. Per una legge fisica, che è la conservazione della carica elettrica, si deve essere creata esattamente tanta carica positiva quanta carica negativa. E allora l'antimateria? Per cui tanta materia quanto antimateria. Però se oggi noi guardiamo l'universo, sono stati fatti esperimenti con varie tecniche per cercare l'antimateria nell'universo, non si trova. E allora si tratta di capire come possa essere scomparsa l'antimateria. Una di queste ipotesi è che l'antimateria non si comporti esattamente come la materia, cioè che in questa simmetria tra materia e antimateria ci sia una piccola differenza. Cioè vuol dire che l'antimateria risponde a leggi fisiche diverse da quelle che risponde la materia? Sì, diciamo che per esempio quello che deve essere successo è che ci deve essere stato possibile per dell'antimateria trasformarsi in materia, ma il processo in un senso deve essere leggermente più favorito di quello nell'altro senso, e la violazione di CP è proprio responsabile di questa lievissima asimmetria tra la materia e l'antimateria. Da Mattias al 333-180-94-94 ci arriva un sms e ci chiede: ciao, spiegate questa cosa dei buchi neri. Dei buchi neri, cioè, si è ben parlato durante questi giorni, l'abbiamo visto in televisione, l'abbiamo guardato su internet, insomma, si è scritto veramente tanto. Insomma, un fisico ha dichiarato guerra, fra virgolette, a LHC, dicendo che LHC avrebbe creato un misterioso buco nero, un mini buco nero che avrebbe in 4 anni, non so quanti, avrebbe inghiottito la Terra. Ora, veramente, come stanno le cose? Succede questo. Dunque, innanzitutto, i buchi neri che cosa sono? I buchi neri sono degli oggetti che si pensa che esistano nell'universo, in cui c'è un'enorme massa, pensiamo alla massa di una stella, che è implosa e si è concentrata tutto in un piccolo punto. Essendo così concentrato, esercita una forza di gravità enorme che attira tutto quello che c'è attorno verso se stesso, schiacciandolo in questo puntino infinitesimo. Un aspirapolvere cosmico, insomma. Sì, un aspirapolvere in cui tutto però non va in un sacco, ma va in un punto, cioè viene compresso fino a diventare un punto. Questo è il buco nero, come lo si pensa in astronomia. Bene, nel caso di queste collisioni tra protoni non ci si aspetta nulla di simile. Quello che alcuni fisici teorici hanno ipotizzato, ma si tratta soltanto di teorie, che sarà interessante vedere se effettivamente trovano riscontro sperimentale, è che nell'ipotesi che oltre alle 4 dimensioni in cui viviamo, cioè le 3 dimensioni spaziali più il tempo, esistano delle extra dimensioni che alcuni fisici teorici ipotizzano, potrebbero crearsi dei piccoli buchi neri per degli istanti, per degli intervalli di tempo però brevissimi, immediatamente decadrebbero producendo altre particelle. E qua di mezzo c'è una cosiddetta radiazione, che è la radiazione di Hawking, che permetterebbe al piccolo buco nero di evaporare. Di evaporare, esattamente. Questo è quello che questi teorici si aspettano, non sappiamo ancora se sia vero o non sia vero. Comunque, se è vero, si tratta di oggetti che decadono in un tempo molto breve, che non è sufficiente a inghiottire un bel nulla, si tratta di frazioni infinitesime. In ogni caso, per rassicurare chi si preoccupa di questo fatto, bisogna basarsi non su modelli teorici, perché i modelli teorici, fin tanto che non hanno riscontro sperimentale, non hanno fondamento. Bisogna basarsi su osservazioni sperimentali. Ora, noi sappiamo che nell'universo esistono oggetti molto densi, cioè con molta materia concentrata, come sono per esempio le stelle di neutroni, ed esistono raggi cosmici, cioè particelle che viaggiano nello spazio senza nessun acceleratore che le acceleri, ma con un'energia altissima, che incidono regolarmente su tutto l'universo e dunque anche su queste stelle di neutroni. Ora, se questa possibilità di formare un buco nero che faccia del danno esistesse, si osserverebbero di tanto in tanto nell'universo delle enormi esplosioni di queste stelle, che sarebbero osservate dagli astronomi, sarebbero state sicuramente di grande interesse scientifico. E ci sarebbe una bella biblioteca, insomma, dedicata a questi fenomeni. Una biblioteca dedicata, sì. Diciamo, noi siamo molto, molto, ma enormemente al di sotto di queste condizioni, per cui diciamo che possiamo stare tutti tranquilli. Del resto, voglio dire, il CERN è un laboratorio in cui sono presenti migliaia di fisici, tutti questi fisici hanno famiglia, non sono dei dottor Stranamore, no? Che per l'interesse scientifico sarebbero disposti a sacrificare la vita, per cui direi che tutti possiamo stare tranquilli che nessun effetto catastrofico di questo tipo succederà. Noi ci lasciamo con un po' di musica e poi torneremo in studio. Questa è Caccia al Fotone. neglecting the scene is all wrong. Curtailing ourselves, nothing lasts a very long. A carbon copy, the tide dug wrong. Ghosting up like a sight and slowly along. Dressed up, down the alcohol. Feeling so much. Bene, ritorniamo in studio. Beh, quest'oggi parleremo e stiamo parlando di LHC e ne stiamo parlando in compagnia di Domenico Galli dell'INFN di Bologna. Abbiamo ormai esplorato più o meno che cos'è LHC, come è composto, di quanti esperimenti è composto e che cosa cercherà. Ma non abbiamo esplorato una cosa. La gente, tra virgolette, comune. E cosa ne avrà dall'accensione di LHC? Beh, esperimenti di questo tipo sono esperimenti di fisica di base, di scienza di base, esperimenti di frontiera in cui si cerca di conoscere cose che non sappiamo, cose, come dicevamo prima, anche della nostra storia più remota, cioè dei primi istanti dell'universo. La scienza procede in questa maniera da sempre, praticamente da sempre la gente si interessa, per esempio, alle stelle, osserva le stelle senza che dalle stelle venga un beneficio diretto. Come spesso accade in questi campi, però, ci sono notevoli benefici indiretti. Cosa che sarebbero, per esempio? Benefici indiretti. Per esempio, Galileo, osservando le stelle, per osservarle, si costruiva i cannocchiali e dunque si è sviluppata l'ottica dei cannocchiali. E quindi i nostri occhiali, tra virgolette. Quindi i nostri occhiali, quindi le macchine fotografiche, strumenti ottici, tutta una serie di cose. Per la fisica delle particelle succede esattamente la stessa cosa. Come si sa, la cura del cancro, per esempio, negli ultimi 40 anni ha fatto dei progressi enormi. Questi molti lo sanno. Quello che non si sa è che questo progresso è dovuto principalmente a un progresso negli strumenti di diagnostica. Bene, questi strumenti di diagnostica sono stati sviluppati per la fisica, in particolare per la fisica delle particelle. Faccio alcuni esempi. La risonanza magnetica nucleare, adesso lo chiamano soltanto risonanza magnetica, hanno tolto la parola nucleare perché spaventano la parola nucleare, ma si tratta di risonanza magnetica nucleare, cioè ciò che va in risonanza è il momento magnetico dei nuclei che compongono il nostro organismo, la PET. La PET è fatta, è una tomografia fatta con positroni, cioè con dell'antimateria. E questo non è tutto, perché per esempio c'è un importante metodo di terapia per certi tumori, che è l'adroterapia, che viene effettuata esattamente con gli adroni, gli stessi adroni che si usano nell'acceleratore LHC. L'adroterapia consiste proprio in piccoli acceleratori di particelle che mandano questi protoni, no, contro la parte da curare, contro il tumore da distruggere. E ha una particolarità di grande interesse, cioè questi protoni non sono come i raggi X, i raggi gamma o le altre radiazioni usate fino adesso, che dove passano rompono, distruggono tutto. I protoni sono come delle bombe di profondità, più rallentano e più diventano distruttivi. Però se uno li spara con una certa velocità, questi penetrano sotto la pelle senza fare niente, fin tanto che si rallentano e a quel punto distruggono. Regolando opportunamente l'energia di questi protoni si riesce a distruggere a una certa profondità senza fare nulla ai tessuti che stanno prima. Ci sono delle tecniche di TAC per individuare le parti malate e immediatamente andare a colpire le parti mentre il paziente è legato a un lettino in modo che non si muova, no? Per cui è una distruzione molto mirata. Tutte tecniche nuove che derivano dalla fisica delle particelle. Insomma, fondamentalmente la fisica delle particelle non è una fisica tra virgolette messa sul piedistallo solo ed esclusivamente perché è una fisica che non ci può dare un vantaggio immediato. In realtà il vantaggio ce lo dà a lunga distanza, però all'inizio fondamentalmente non si sa quale tipo di vantaggio potrà dare, quindi intanto la ricerca di base va fatta e poi vedremo che cosa, quali saranno i risultati. Diciamo, anche diciamo, la tecnologia che è servita per costruire questo acceleratore ha migliorato molto la produzione industriale, per esempio, di magneti. Parliamo dei magneti superconduttori fuori onda, per esempio. Sì, LHC ha 1500 magneti superconduttori. Che sono, tra virgolette, i magneti superconduttori delle specie di indirizzatori delle particelle? Sì, servono per deviare il fascio di particelle che, se non venisse deviato, andrebbe dritto e non su una traiettoria circolare. Quindi è come se la particella avesse un timone, tra sì, esattamente, le particelle vengono deviate da questi magneti. I magneti sono delle elettrocalamite, degli avvolgimenti di filo, no? Che è come un normale elettromagnete che si trova in qualunque motore elettrico o campanello, attira degli oggetti metallici. Solo che questi magneti creano dei campi magnetici di intensità enorme e, essendo fatte da superconduttori, in condizioni stazionarie non consumano energia. Negli anni di costruzione dell'acceleratore LHC è andata a metà della produzione mondiale di magneti superconduttori, e che per esempio le ditte che hanno fabbricato questi magneti hanno dovuto costruirsi dei nuovi macchinari per fabbricarli con una tolleranza che fino a quel momento non era stata mai utilizzata nella produzione di un magnete. Ah, never mind that space stuff, let's get down to it. What is the architect doing? He is by the riverside. What is he thinking out there? He is committing eagle side. Now isn't that a strange thing? A person's gotta do what a person feels he must. He said, I won't throw myself from the pier. I'm gonna go home and shut it for a year. And when the year is over, I'll reappear and have a solution. I've reason to believe that what I find is gonna change the face of humankind. And all these years before, well, I was blind. That's my confusion. Cause I'm the architect. I think it's touch and go. Cause I'm the architect. That man has understood. Sono le 16.53 del mercoledì 10 settembre 2008 e questa è Caccia al Fotone. E quest'oggi siamo in compagnia del dottor Domenico Galli, professore docente presso l'Università di Bologna e ricercatore presso l'INFM. Ci è arrivato un messaggio al 333-180-9494. Mattias ci chiede: che tipi nuovi di armi si potranno creare con LHC? Ora, dottor Galli, io le lascio la risposta. Bene, una domanda interessante, perché qualche anno fa un fisico importante americano, che è noto per essere, diciamo tra virgolette, un guerrafondaio, cioè Teller, propose di utilizzare i fasci di particelle per fare le guerre stellari. In realtà, secondo me, la cosa ha poco fondamento. Certo è che l'operazione che fu fatta allora fu quella di far credere che potesse servire per fare delle armi, in questa maniera avere dei finanziamenti. Il problema è che a un certo punto il governo americano, secondo me, non ci ha più creduto, tant'è che ha tagliato i finanziamenti alla ricerca nella fisica delle particelle. Un acceleratore delle dimensioni dell'LHC che si sarebbe dovuto costruire negli Stati Uniti d'America è stato a un certo punto chiuso perché il governo americano ha ritenuto che non fosse una questione che interessasse al governo americano. Questo penso che dia tutte le risposte, perché se effettivamente ci fossero state le possibilità vere di costruire delle armi, sicuramente penso che il governo degli Stati Uniti d'America non si sarebbe fatto scappare l'occasione. Dottor Galli, siamo arrivati ormai all'ultima parte della trasmissione, siamo ormai negli ultimi 10 minuti e quindi le volevo chiedere fondamentalmente: che cosa l'ha spinta a interessarsi alla fisica? Che tipo di esperienza umana ne sta guadagnando da questo esperimento? Che tipi di ricercatori sta conoscendo attraverso questo esperimento? Insomma, il suo personale. Ma guardi, il mio interesse per la fisica risale effettivamente da lontano. Io quando ero bambino, no, ero interessatissimo per esempio agli interruttori della luce. Nei letti che c'erano con gli interruttori col filo, li aprivo tutti, poi ci cacciavo le dita e prendevo delle gran scosse. Sarà stato contento suo padre, insomma. Sì, mio padre, dopo avermi sgridato in vano qualche volta, a un certo punto mi regalò un cacciavite cercafase che mi servì, perché con quello vedevo, prima di toccare con le dita, se avrei preso la scossa o meno, per cui mi servì per evitare molte scosse. Comunque diciamo che l'interesse per il mondo naturale sì, è una caratteristica nella mia vita che proviene da molto lontano. Poi ho intrapreso appunto studi di fisica e come ci è arrivato a LHC? Ma praticamente l'interesse per la fisica di frontiera, direi, per la ricerca di base, per dare risposta a queste domande a cui ancora l'umanità non ha dato una risposta completa, cioè qual è stata l'origine dell'universo, insomma, come è fatta la materia in cui viviamo. Tutte domande che hanno sempre stimolato la mia curiosità. Diciamo che ho avuto esperienza, oltre al CERN, a un laboratorio italiano, che è il laboratorio del Gran Sasso, dove si fa fisica senza acceleratore, una fisica bassa presenza di particelle, appunto, in cui le particelle vengono filtrate da enormi strati di rocce. E che tipo di competenze ha conosciuto durante questi anni? Perché lei mi diceva fuori onda che sono ormai 15 anni, no, che lavorate a questo esperimento. Ah, tra una cosa e l'altra sicuramente sì, credo che diciamo la partenza degli esperimenti risale al 98, per cui cos'è, 10 anni fa, ma prima c'era stata tutta la fase di progetto e ancora prima il progetto dell'acceleratore. Progetti di questa scala, di queste dimensioni, hanno anche scale temporali molto dilatate. Il CERN probabilmente allo stato attuale è l'unico laboratorio che era in grado di fare un esperimento di questo tipo, appunto perché è un laboratorio internazionale e riceve finanziamenti da parecchi stati, sia degli stati membri del CERN, che sono quelli che hanno finanziato la costruzione dell'acceleratore, sia da stati anche al di fuori degli stati membri del CERN, che sono quelli i cui ricercatori partecipano agli esperimenti, no? Agli esperimenti partecipano ricercatori, per esempio anche degli Stati Uniti, del Brasile, della Cina, dell'India. Possiamo avere una stima globale di più o meno quanto è costato questo acceleratore? E rispondendo sempre al nostro ascoltatore, chi lo paga questo acceleratore? Dunque, l'acceleratore è costato 3 miliardi di euro. 3 miliardi di euro che sono stati pagati dagli stati membri del CERN, che sono prevalentemente stati europei. Considerando che un tank costa molto di più di LHC, insomma, forse è meglio costruire LHC piuttosto che un tank. Questo penso sicuramente. Quando si fanno affermazioni tipo quelle che, non so, l'industria militare può essere un motore, no, del resto dell'industria, io obietterei che ricerche avanzate possono essere motore in maniera molto molto più efficiente della produzione industriale. Se fosse possibile, ovviamente la cosa non sempre è possibile, ma se fosse possibile spostare dei finanziamenti dall'utilizzo bellico all'utilizzo in ricerche di fisica avanzata come queste, sicuramente la produzione industriale ne trarrebbe un enorme vantaggio. Senta, le faccio un'ultima domanda prima di chiudere la trasmissione. Secondo lei perché l'Italia continua a non investire nella ricerca? Perché ormai l'abbiamo sentita da parte di tutti i politici, di destra, di centro, di sinistra, durante tutte le elezioni, bisogna incentivare la ricerca, ma la ricerca va sempre peggio. Il CNR si è visto tagliare quasi del 50% l'anno scorso i finanziamenti, insomma, siamo nella situazione. Il CNR quest'anno si trova col turnover bloccato, impossibilità di assumere dei nuovi ricercatori, anche tra i più gravi, no? La situazione è veramente drammatica in Italia. Il motivo, guardi, penso che sia la mancanza di un progetto per il futuro. In Italia quello che manca è un progetto per il futuro. Si vive nell'oggi, no? Ma non c'è nessuna idea per il futuro, perché se si pensasse minimamente a qualcosa per il futuro sicuramente si investirebbe di più in ricerca. Ci sono dei paesi, specialmente paesi dell'estremo oriente, che investono in ricerca delle quantità ingenti di denaro. Io leggevo, non so, la Corea del Sud, in cui in media ogni coreano paga qualcosa tipo 600 euro all'anno per la ricerca, in media, no? Che, dato il tenore di vita in quella zona, è una quantità enorme. Eppure lì hanno deciso di investire. Lì hanno deciso di investire pesantemente. Lo stesso vale per esempio per la Cina. Quegli stati che hanno un progetto per il futuro investono nella ricerca e dunque, tra le altre ricerche, appunto anche nella fisica delle particelle. In Occidente c'è in generale meno tendenza a investire dell'Oriente, no? L'Oriente spinge molto di più e l'Italia poi nell'Occidente è il fanalino di coda. Cioè l'Italia proprio, io penso che i politici italiani non abbiano nessun progetto per il nostro futuro. Se un paese come l'Italia volesse effettivamente rilanciarsi, dovrebbe investire pesantemente nella ricerca e nell'insegnamento. Cioè non si tratta di piccole cose, bisognerebbe fare un gesto molto forte. Le risorse da destinare alla ricerca e anche all'insegnamento, che poi serve a trasmettere le conoscenze acquisite nella ricerca, è un investimento che andrebbe, non so, moltiplicato per degli ordini di grandezza, ci andrebbero aggiunti degli zeri. Non si tratta di capire se va moltiplicato per 2 o per 1,5, ma se uno avesse veramente un progetto per il futuro, questo dovrebbe fare. Ma in conclusione, lei vede prospettive per l'Italia da questo punto di vista, oppure siamo destinati a restare fanalino di coda e sempre peggio? Ah, io penso che da qualche anno siamo su una strada che ci porta sempre più indietro. La speranza che a un certo punto si peggiori a tal punto che qualcuno si determini a cambiare completamente rotta. Io vedo una grande cecità nei politici italiani. E noi, dottor Galli, con questa speranza, insomma la speranza che qualcosa migliori nella ricerca italiana, anche se purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni che è andata sempre peggiorando, la salutiamo, la ringraziamo di essere venuto in diretta con noi, di essersi messo a disposizione per rispondere alle domande dei nostri radioascoltatori, quindi grazie ancora. L'aspettiamo con impazienza per le prossime volte in cui si parlerà di fisica delle particelle, di fisica normale e di LHC. Grazie ancora per essere venuto e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie, saluto e arrivederci. A tutti, arrivederci.